rievocare in una località tipica, in una zona alta di Agira, ricca di storia, questo evento della Natività proprio la notte di Natale. Ma lo faceva bene San Giuseppe? Era un buon San Giuseppe, buongiorno. Sì, ma San Giuseppe è stato Pietrangelo particolare. Un tutt'uno Pietrangelo e San Giuseppe. No, no, è il presepe che è meraviglioso perché oltretutto Agira è bellissima, poi veramente tutto quello che uno cerca, il suggestivo, l'atmosfera, la perfezione, il lindore delle luci, ma, ecco, ad Agira c'è tutto. Ma quanti figuranti ci sono? Ma sono un 150. Ah, però. Accidenti. Ma vorrei dire che anche i visitatori diventano figuranti perché l'oscurità della notte, il clima particolare li coinvolge talmente che lo stupore dei pastori è anche lo stupore dei visitatori. Mi fa piacere. È un tutt'uno, un tutt'uno. Ma che bello! Allora, tanti auguri per questo fantastico presepe. Come fate senza buttafuoco quest'anno? Sto andando in aeroporto. Ah, stai per andare. Ah, ma scusa, non l'avevo capito. Grazie. Grazie. Eccoci qua. Allora, dopo aver appreso questo, che cosa succede? Che siamo alla vigilia di Natale, ripeto. Dobbiamo essere tutti più buoni, Giovanni. Caro Pietrangelo, anche tu che sei così discolaccio. L'abbiamo evocato tante volte nel nostro programma. Insomma, il cattivone non si fa così. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. E se vuoi un amico, prendi un cane. Senti, ma Pietrangelo, dimmi. Ma il Natale è importante anche nell'Islam? Altro che, certo. Cioè? È importante perché si festeggia il giorno della nascita del profeta Gesù Ibn Maryam, cioè figlio di Maria, e la Vergine, cioè la Madonna, è la figura femminile in assoluto venerata e citata nel Santissimo Corano. E bisogna dire, e lo diciamo e lo ripeto a maggior ragione perché l'ignoranza si mangia tutti, che queste giornate sono illuminate a festa, per esempio a Teheran, perché viene salutato proprio come una delle ricorrenze fondamentali della memoria di tutta quella civiltà. Ma non lo so che dire, perché io non lo sapevo, buttafuoco, una cosa importante. Buttafuoco nella materia mi batte. Sì. Nella materia mi batte. Solo posso in questa. Batterti anche in un'altra cosa? In che cosa? Ah, in una canzone bellissima. Vorrei tornare indietro per rivedere il passato, per comprendere meglio quello che abbiamo per. Ecco, e passa Caglia di Franco Battiato. Strano, certo, strano. Io ci ho aperto anche una per cosa carità, con passa Caglia. Non l'abbiamo sentito mai in questa trasmissione. Mai, Franco Battiato, se fosse per noi non esisterebbe. Non esisterebbe. Oh, e che ci posso fare se i più bravi sono lì? Non è grave. Vabbè, tu hai messo questa e io, caro Buttafuoco, ti dico la verità. Io non ce la faccio più con te. Non te regge più. Abbassare! Non te regge più. Abbassare. Non te regge più. Abbassare con le canzoni senza fatte e soluzioni. La castità. Non te regge più. La verginità. Non te regge più. Ah, va, spettacolo ci vuole! È la grande tradizione della commedia musicale italiana affidata ad un grande personaggio del passato, grande a maggior ragione se brevilinio, e però l'unico piccoletto che riuscì a raccontare il corazziere. Carina. Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta quando a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. Figurati che faccio il corazziere. Dicon che di crescere non mi dovrò fermare. Ma è un attacco alle istituzioni? A Giorgio Napolitano? No, sono gli auguri a Giorgio Napolitano, no. Anzi, io mi permetterei di suggerire a Matteo Renzi di utilizzare questa canzone per andare da Napolitano. Ma invece la domenica no, lo sai perché? No, io lo faccio appunto per evitare una gaffe, perché si sta presentando al Quirinale a fare gli auguri a Giorgio Napolitano portandogli il libro Strenna di Bruno Vespa. No. O forse potrebbe essere quello di Cazzullo, non lo so, non comunque lo so. È meglio Rachel. È il piccoletto, è l'unico piccoletto di successo in questa trasmissione, mi pare. Sentite, ma voi avete scritto la vostra letterina di Natale, tutti i bambini l'hanno scritta, voi in tu? Giovanni, ma naturalmente, no? Naturalmente, sì, buttafuoco, no? L'hai scritta? In interiore, certo. Ma non è che l'avete scritta così. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. A cambisa, magli e calzettini. Lucari, mi ha mandato un piatto. Chi ha fatto bene? Come ha fatto bene? Chi la mamma mandava all'ospedale ha fatto buono? Naturale, ma tu non lo lascia passare uno. E cammini, lascialo leggere, te l'ho detto, ha avuto la malattia, è nervoso. Guarda la gamba, guarda la gamba. Ma voi stai due, zitto, lo sai, ragazzo, voi due, che cosa vorreste per Natale? Mario? La Tardelli portatile. La Tardelli oramai, la nostra star. Tutte le mattine mi dice: hai finito le bolle? Tremendo. Io vorrei ritornare indietro, come diceva Passacaglia, vorrei ritornare indietro al tempo in cui ascoltavo e cantavo questa canzone. Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti. Siete polverosi. Siete noiosi. Forse siete vintage. Ma alla vintage fine è quella cosa pornografica? Sì, certo. Più o meno. Ma alla fine, vabbè, è un complimento. E allora io voglio tornare nella contemporaneità. Basta con il passato e vi auguro buona fortuna. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. È una cosa anni 80? Ma tu stai scherzando? Daft Punk! Guarda, Get Lucky! Cioè, è una cosa di Paninari? No, più è una o meno cosa fantastica. È una cosa di Renziani? Questi sono dei grandi, no, buttafuoco. Senti, siamo a Natale, io vorrei un po' di canti gregoriani. Non è possibile. No. Sì. No. Ci sono? Sì. No. Sì. No. Allora, se è così, vi rispondo ancora con la contemporaneità, magari un po' retro, ma contemporaneità è. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping out of your nose. Yuletide carols. Dopo la pubblicità continua la serie dei Faccia a Faccia con la Storia con Gabriel García Márquez. Mix 24 di Giovanni Minoli. I Faccia a Faccia della Storia. Per la serie dei Faccia a Faccia della Storia, curati da Sara Tardelli, oggi vi presentiamo quello con Gabriel García Márquez, che ho realizzato nel 1987, l'ho incontrato a Cuba, alla scuola del cinema dove insegnava. Abbiamo parlato di tutto, di povertà, di infanzia, di morte, ma soprattutto mi ha raccontato come nascono i suoi romanzi, il dietro le quinte della vita di un grande scrittore. Gabriel García Márquez, colombiano, malinconico e sarcastico, sensuale e cinico, è la voce, la penna di un intero continente, l'America Latina. Cent'anni di solitudine, la mala ora, un giornalista felice e sconosciuto, racconto di un naufrago, l'autunno del patriarca, cronaca di una morte annunciata. Sono solo alcuni dei suoi romanzi tradotti in almeno 5 lingue che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Nato ai tropici, è stato a scuola dei gesuiti, è arrivato all'università ma non l'ha finita.